Lei mi ha detto poco fa che quel dubbio era realtà. Poi con gli occhi di una donna mi ha detto è tuo, però problemi non ti darò. E soltanto un mese fa lei aveva la mia età. E quel giorno che le ho chiesto l'hai fatto mai l'amore mentendo, disse di sì.